E c'era una volta un gran castello, c'era un principino tanto bello che si rattava e badri tutto il giorno. E mentre la gente travagliava, fino a quando sole si stutava stu, gran pezzo di fetuso s'ascialava. E no, io non t'adugno un teto brazza, o principini mala razza, l'armuzza duci di l'amore me. No, non mi zeccare sto cuteddu, o gran fetuso gran purceddu, mi sta perciando core l'anima. Non m'ha toccare sta figlietta, io m'ha teneva così scritta, star muzza duci di l'amore ma. E sì, se tu mi zicchi sto cuteddu, e se ti porto to castello, accorpa dici tu una la difenno. E no, o principini mala razza, ti piglia pugna sta facciazza, mi sta sciancando core l'anima. E allora è meglio che finisci, non c'è più carne e non c'è pisci, ne lasci in pace ora t'addormisci. E c'era una volta un gran castello, c'era un principino tanto bello che si rattava e badri tutto il giorno. E mentre la gente travagliava, fino a quando sole si stutava stu, gran pezzo di fetuso s'ascialava.